tornare alla relazione di Olmi, dove mi sembra che ci sia una forte sensazione, in qualche modo, dello schema Crozzano, di questa grande opera, sulla quale io ho un notevole rispetto, che è la storia della fotografia del secolo XIX, ma che è un'opera che secondo me oggi abbiamo non solo il diritto ma il dovere di smontare, nel senso che in quest'opera le culture regionali prima dell'unità sono fatte scomparire in un'operazione di laicizzazione della prospettiva neoguerra che ha una forte influenza sul problema della corte e dello Stato. Se Olmi avesse interrogato di più quella storia, quella storiografia piemontese, avrebbe visto come molto di più il tema della corte. Non so, per fare un esempio, l'età di Carlo Alberto è un'età di grande storiografia, dove Cibrario, cioè l'organizzazione storica piemontese, che va appunto da uomini come il Cibrario e di cui l'onda emergente, ma c'è tutto un grosso lavoro di ricerca alle spalle, è il Cesare Baldo, in realtà tutti quanti i problemi dello Stato e della Corte si ripongono perché chiaramente stanno facendo un'operazione ideologica che Croce secondo me tende a sottovalutare perché tende a creare una contrapposizione tra le Oguenti e i Ghibellini in cui scompaiono le culture, per esempio scompare completamente la cultura lombarda. E perché scompare la cultura lombarda? Ma perché era una cultura potenzialmente, cioè aveva una sua ambiguità tra il moderato Manzoni che poteva essere recuperato in questa dimensione di questa e tutta la potenzialità democratica che invece è stata in questa maniera eliminata. Dico questo perché per esempio tra lombardi e piemontesi c'è stata una grossa discussione storiografica proprio sul tema dello Stato. Il problema dei parlamenti, delle rappresentanze, del potere centrale, il problema del ruolo di Emanuele Filiberto è stato discusso. Il Crepuscolo stronca duramente lo Sclopis, per esempio, con questa storia dei parlamenti. C'è una storiografia che in realtà propone lo Stato e la corte piemontese facendo una grossa operazione ideologica di offrire una cultura alla classe dirigente. E questa operazione ha, secondo me, il suo monumento che in una storiografia sulla corte andrebbe esplorato e che non è stato citato, secondo me, significativamente perché Ricotti lo nomina una volta sola, che è il grande libro di un uomo dell'età di Carlo Alberto, proiettato invece nell'unità d'Italia, che è tra l'altro il mio predecessore perché ha avuto la cattedra di storia moderna a Torino, che era una cattedra di storia militare d'Italia. Il Ricotti ha scritto una storia della corte e dello Stato che è di straordinaria intelligenza, conservatore, perché Ricotti era l'uomo di Carlo Alberto, era l'uomo di questa operazione che si è protratta, ma che aveva tutta una sua strumentazione culturale estremamente ampia, di cui andrebbe tenuto conto per completare questo quadro che, secondo me, il libro della Porciani ha avuto il merito di cominciare a smontare facendo vedere come i moderati toscani puntano su una direzione, questa arriverà fino alla fine dell'Ottocento, sarà un'operazione. Ma i piemontesi sono stati interessanti in questa direzione. E quando è finito questo discorso? Questo discorso è finito significativamente nel 62, quando la reputazione di storia patria subalpina è stata smontata con una nuova operazione ideologica, che era quella di non fare più la storia del Piemonte ma di fare la storia d'Italia. Non a caso il Piemonte mi ha citato questo bellissimo documento che non è pubblicato dove? Nella Biblioteca Storica Italiana, che è la trasformazione di una reputazione di storia patria con una volontà di egemonia nazionale in direzione di combattere tra l'altro i toscani, cioè di contrapporre all'operazione di Bisseux uno strumento piemontese italiano. Quando c'è il ritorno al Piemonte, e chi lo fa? Lo fa la cultura storica conservatrice che non è piemontese, e questo è molto divertente. Nicomete Bianchi, un emiliano che va a fare l'attivista in Piemonte, riprende il mito del Piemonte quando, in quegli anni 70, che Cesare Mottarelli considera di fare giustamente come un momento di svolta, in cui c'è una crisi dei valori della società italiana, L'Italia si è fatta, ma gli italiani sono fatti male, allora cosa si fa? Ah, il Piemonte però c'era una grande tradizione, eccetera, lo studio della corte, della diplomazia, eccetera, è in mano a questa storiografia, da cui poi tutto impara, in realtà, facendo una relazione di forze. Ecco, ora questa storiografia piemontese si pone i problemi della corte più volte. Faccio un esempio che mi sembra molto significativo, il caso del più grande storico. Ed è il più grande, probabilmente il più grande pensatore economico italiano degli anni dell'inizio del Novecento, e in Audi. Ma Carlo, come c'entra col tema della corte? Tenete conto che in Audi è quello che fa questo gioco storiografico straordinario di trasformare un episodio come la celebrazione della battaglia di Torino del 1707 in un grande studio di economia sulle finanze piemontesi e su come la corte comincia la politica delle riforme, perché per fare la guerra di successione spagnola ha bisogno di modificare il modello di Stato e comincia quell'analisi del ruolo dello Stato e del ruolo delle spese pubbliche che ha fatto riscoprire in una dimensione che in Audi era più aperta, in Prato era più conservatrice, piena di nostalgia per il mito piemontese di Stato, eccetera, che è diventata poi punto di partenza per quella rivista di storia economica che è grande episodio in fondo di un certo tipo di cultura. Ebbene, questo rientra anche nel discorso di Chabot. Ecco, l'unica cosa che non mi ha persuaso nella relazione così complessa, così ricca di Montanelli è il modo, diciamo, un po' atemporale con cui è stato considerato Chabot. È molto più complicato il problema di Chabot. Chabot arriva dalla Val d'Aosta a Torino, si trova di fronte personaggi, anche così si trova da ricordo, una abbastanza cultura positivistica e in parte diredisce e in parte la stimola, per esempio stimola la filologia, e invece reagisce e fa il principe, questa introduzione al principe che è isola la cosa. Però non si può paragonare questo rapporto con il principe di Machiavelli, che magari è più vicino ai problemi che Gramsci si poneva qualche anno dopo, tra l'altro seguendo tutta la storiografia sulla corte piemontese che si stava facendo dal carter, non è paragonabile all'operazione che fa invece dalla crisi dello Stato fascista al secondo dopoguerra, dove la storiografia sullo Stato in Chabot è il grande tentativo di creare un'alternativa alla storiografia razzista nascente e alla storiografia delle annate, l'operazione di studiare la fiscalità, eccetera. Ma come mai era arrivato a questo? Secondo me perché sarà andato, si era accorto che nella porta accanto c'erano i Minardi, c'erano stati Brasso, c'era una tradizione di storia economica e ha inventato in qualche modo ha inventato, ha reso complesso il suo modello, che magari si conserva certamente un legame, che è questo. Ecco, questo diciamo, è un punto di osservazione. Un'altra che mi sembrerebbe molto interessante, in questo senso aggiuntiva alla una proposta, è vedere l'effetto di questa storiografia nei manuali. Cioè, anche questo, uno degli stereotipi più importanti, più interessanti sono i manuali di storia. È chiaro che nella cultura italiana i manuali di storia hanno avuto meno importanza dei manuali di storia della letteratura. Cioè, l'operazione De Santiziana ha preceduto quella crociana che era ancora, ma se si va nei manuali di storia, in realtà si vede che le cose sono un po' più complesse. Il tentativo di egemonia piemontese è durato fino alla fine dell'Ottocento. Anche quantitativamente, io ricordo, io ricordo, è arrivato a controllare il 37% dei italiani come diciamo edizioni scolastiche nel 77-78, una relazione di Barri un po' memoria, cioè mentre oggi il massimo delle traduzioni di un terzo di storia non supera il 15-16% del mercato scolastico. E qui questo è un testo che è durato da prima dell'unità degli anni 50 in cui è stato fatto fino e il tema della corte era fortemente presente nel campo del Piemonte. La coscienza risorgimentale si è fatta attraverso operazioni che sono cominciate nell'età Carlo Albertina, sono cominciate con Cipriano, il primo autore di un manuale di Montese, di storia, che è stato applicato. E poi con Ricotti, che è stato il grande autore della storia popolare per la scuola italiana. Cioè, il tema della corte non è stato così assente, solo se secondo me va cercato in quel gruppo, in quel tipo di cultura che in realtà ha giocato la carta dello Stato. Naturalmente, che cosa è successo? Quanto più lo Stato diventava italiano, tanto più le operazioni ideologiche complessive le facevano fuori dal Piemonte, le facevano i meridionali, io mi associo a questo tipo di tradizione, che appunto avrebbe dato la carta dello Stato di Dio, infatti, ma non è. C'è qualcuno, scusa, darei la parola ai due subito per rispondere perché è meglio conservare il dibattito, però se qualcuno non può essere ciò di pomeriggio e desidera fare un intervento, darei la precedenza in questo momento. Forse è una persona che cazzi. Sei andato via che sei qui? Era lui che voleva ricevere il partito. Ma io niente da dire, solo che il versante che non ho toccato immediatamente recuperati mi ha beccato. Però lo ringrazio veramente molto, non perché lo usa così, ma perché mi conforta a guardare tutto questo settore di storia regionale, soprattutto piemontese, che non l'ho guardato. Proprio con Papagno, se ti ricordi, in giugno si parlava, dove tu Papagno dicevi di guardare, stavamo discutendo, di guardare un tipo di storiografia regionale che probabilmente dava risultati diversi, e da allora questo lì non avrei fatto a tempo. Quel poco ho guardato, infatti è solo dopo l'unità in cui si è appunto tutto il tentativo di riuscito di egemonia sabauda, e quindi confesso che così per la prima metà dell'Ottocento non ho guardato queste cose, e ti ringrazio, e adesso per quando verrò alle stampe vedrò di mettere appunto la foto. Quanto poi ai manuali, anche lì pochi di Cesare ne stavano parlando qualche giorno fa, che sarebbe riuscito un settore da fare. Poi volete per gli altri. Ti dà un'occhiata. Io credo che mi interessava vedere la congruenza di Chabot a questi discorsi, quindi come anche lui fosse legato a questo. E perché mi sembra che tanto ci sia questa idea di appunto nucleare Chabot dalla storiografia italiana e anno Sardino. No, ecco, la cosa ne parlavo proprio prima, è un peccato che si tenesse andato via, perché alcune cose che mi ha accennato adesso, forse non so se vuoi far trovare. No, ho capito la. Perché adesso è difficile, perché uno non lo fa vero, Paolo. Cioè, Chicolini faceva, se non ho capito male, un discorso parallelo ma opposto a quello che fanno i superati. Diceva c'è una storiografia che in cui non c'è identificazione con lo Stato, ed è la storiografia cattolica. A cui naturalmente alla fine lui mi scriveva, no? Ecco, dunque tra insieme due cose, per dire questo, lui faceva l'esempio di Lodovico, a me sembra che Lodovico abbia delle pagine invece sui costruttori di Stato, però niente, io la metto lì. Il discorso di superati mi sembra molto, cioè, senz'altro da utilizzare. Dicevo appunto, ma non si sente prima, che secondo me è più statalista Chabot negli scritti del dopoguerra di quanto non sia nei primi degli anni 20, no? Ecco, questo quello che diceva Recuperati. Lo spiegherebbe molto bene, mi sembra. Cioè, Chabot, proprio perché il problema dell'annale e del marxismo è punta su una storia istituzionale, no? Quindi di struttura. Non so se è questo che. Quindi anche d'accordo sul fatto che ci fosse una forte influenza positivista nel primo Chabot, no? Cioè, le critiche degli idealisti alla battaglia sono in questo senso molto significative, per rimproverare lo psicologismo, insomma. E quindi anch'io mi associo alla Cristiana Verde, ci darò conto di questi elementi. È un peccato veramente che Giorgio in Lombardia, perché questa sua obiezione poi mi ha fatto molto rapidamente, nella quale però è molto adesso perché mi sono collegato, nella quale però sosteneva anche che Chabot degli anni 50, non mi sembra di dicesse, era meno legato invece, secondo lui, al modello fatto moderno. Era così, no? Sì, lo articolava diversamente. Ecco, sì. Quindi è un peccato che lui aveva fatto questo posto che fare l'eco di questo lì. Diceva questo, che il principe, Gianni Brindisi, Machiavelli, è in qualche modo per Chabot una situazione eccezionale che si verifica proprio perché manca lo Stato. Lui respingeva la sua identificazione del principe con lo Stato. Diceva no. Se fossero due cose diverse, c'è il principe proprio perché non c'era stato, questa era la sua. Bisogna vedere se forse non articolando per periodi si riesce meglio a chiarire questo. Sì, facciamo un po' di tempo in intervento, volta vedendo tutti i tre discorsi mi sono per esempio un po' chiesto cosa è accaduto in Germania accanto al dottore dei ricordi, e ci sono molte parallele con l'Italia, parallele strane. E in Germania anche le cose erano non dimenticati ma severamente giudicati durante tutto l'Ottocento, e più delle cronache tutta l'età del barocco. Non c'era un dibattito esplicito sopra le cronache, ma sopra il barocco e il valore del Rinascimento. E adesso viene fuori che tutte le tre grandi correnti dell'opinione pubblica dell'Ottocento tedesco erano concordi nel questo vero giudizio che il barocco e le corti erano un fenomeno di decadenza. Questi tre correnti, il democratico, è chiaro che i democratici dovevano vendere il barocco, ma anche i nazionalliberali, statali, la grande parallela per i piemontesi, i sardi, non trovavano nel barocco un grande, perché c'era il tempo quando l'impero tedesco era al punto più basso della sua potenza, delle invasioni francesi, eccetera. E la storiografia cattolica aveva grandi difficoltà col concetto del Rinascimento stesso. Lucifer Pazzo, per esempio, era il primo storiografo cattolico che trovava un lato buono. La tradizionale storiografia cattolica vedeva nel Rinascimento il paganesimo risuscitato. Il Pazzo era il primo che in un modo molto semplice divideva il Rinascimento, un Rinascimento buono, cristiano, e un Rinascimento pagano. E allora tutte le tre grandi correnti non venivano nel barocco nulla, ci voleva un grande sforzo nella seconda metà, piuttosto verso la fine dell'Ottocento, per trovare nuove vie di accesso a questi due o tre secoli. E poi qui anche il giudizio sopra il Rinascimento italiano aveva certe persone tradizioni simboliche. Il grande era la tradizione tedesca contro Machiavelli, Federico ha scritto il suo Anti-Machiavelli, eccetera. E l'altra figura quasi angelica era il Raffaello, e nella prima migliore valutazione il Raffaello entrava quasi, diventava una persona chiave. Hermann Grimm, il figlio del noto germanista Wilhelm Grimm, dominava per forse 30 anni l'opinione pubblica per il Rinascimento in Germania, e per lui Raffaello era il supremo grado dell'umanità. E questo era per lui chiaro. Hermann Grimm non era un miliziano, era un altro che era in generazione prima, ma per lui Raffaello era quasi un sopra uomo. Raffaello è anche un teologo, anche storiografo, che io ho studiato tanto, Sava Kraus, vedeva nel santo di Raffaello nel Vaticano l'espressione più alta della religione e dell'umanità. Poi veniva naturalmente Nietzsche e la generazione dopo il 1900, e per loro Raffaello doveva lasciare il posto per Michelangelo. Michelangelo, che per la generazione prima era troppo violento nei suoi movimenti e questi corpi massicci e tutto questo anche incompleto, dava un po' paura a questa borghesia che vedeva in Raffaello un po' rosa e blu. Ideale. E queste sono un po' che osservazioni, sono parallele e tedesche che naturalmente mi servono un approfondimento. Grazie. Ma se curati? No, perché siamo. Adesso io l'unica preoccupazione è di sfruttare interventi che invece vorrei si difendessero senza limiti di tempo. Se c'è un intervento breve. L'intervento che nasce anche da a volte dalla nostra storiografia. Quello che mi lascia molto curioso nella relazione di Olti è appunto questa scelta che parte da una casa di Stendhal molto significativa, e come se appunto il momento di unire una storia ottocentesca dovesse prescindere da tutta una serie di accordi storiografi, in questo caso storiografi dell'arte, sulla corte, che erano stati invece pregiudicati qualche anno prima. Per cioè, in questo caso, a un libro come appunto quello del Cicognara, che nasce nel momento in cui vuole riprendere il discorso del D'Agincourt, c'è una storia della cultura in Italia dal Risorgimento, in cui il capitolo sul Rinascimento parla della corte in un modo direi straordinariamente positivo. E quella differenziazione che poi i romantici fanno tra appunto aspetto politico e aspetto artistico è veramente superata, anche qui naturalmente partendo dall'ideologia delle carte editoriali e la politica, di questa coscienza che non poteva essere o Michelangelo o Raffaello. Ora questo mi domando se può essere da una parte una pregiudicatezza di un autore così che appunto viene considerato unico perché lo usa l'intuizione e cioè uno dei massimi pensatori laici della fine del Settecento. Ora mi domando se a questo punto allora è possibile inserire anche un certo tipo di storiografia di questo genere all'interno di un discorso sulla storiografia, sulla realizzazione della storiografia ottocentesca, e se anche non fosse stato il caso a questo punto, visto che avevi citato così propriamente da Stelzio, da Cantù, ovviamente sono dei notissimi, sono ricchi personaggi, accanto a questo non potete avere lo studio del video, di quello che secondo me è il massimo espressione ideologica della cosa sulla corte, che è la cultura storica, la cultura del romanzo o il romanzo storico di pittura, che è un capitolo enorme, teologicamente parlando, di questo dovrebbe esserci una relazione, io avevo preparato con Haskell così, poi Battisti mi ha detto che Haskell è un coglione, no? Mi sembra che il titolo sia già tutto un programma, nel senso che effettivamente nella storiografia economica italiana la Corte è un